Radio 24 Reportage. La vita di Carlo Petrini, star maledetta del calcio italiano, di Alessandra Roberts, in collaborazione con Radio Svizzera Italiana. Dalla Gazzetta dello Sport di lunedì 14 gennaio 1980. Bologna. È il terzo pareggio consecutivo del Bologna. Anche questo con la Juve sembra tacitamente concordato. Il pubblico fischia durante la gara e se ne va, deluso, insoddisfatto, lanciando palle di neve verso i giocatori delle due squadre. Soltanto gli addetti ai lavori, soprattutto l'allenatore Perani e i giocatori del Bologna, accettano il risultato senza eccepire. Il 13 gennaio del 1980 è stata la data che ha creato la nostra entrata nel calcio scommesse, perché fino a quel giorno noi avevamo avuto la fortuna di essere fuori. Sentivamo che c'era un giro di scommesse, ma la colpa fu di Bettiga, perché chiamò quel giorno, mi pare che fosse un martedì, a casa di Beppe Savoldi, era Bettiga che ci propose di pareggiare questa partita. E da quel momento lì entrammo anche noi in quel maledetto calcio scommesse. Si parlò della vicenda, di quello che io avevo conosciuto a Roma, di Cruciani e Trinca, e allora facendo due conti decidemmo tutti insieme di scommettere 50 milioni. Quando entrammo negli spogliatoi, io mi ricordo, trovai tra Pattoni e Causio che stavano parlando, io le dissi chiaramente: mi raccomando, perché noi abbiamo scommesso un sacco di soldi. E Trapattoni rispose: non ti preoccupare. Nel corridoio, mentre si stava entrando in campo, parlammo anche con gli altri e capimmo che anche loro sapevano dell'accordo. Poi si entrò in campo, spettacolo bellissimo, perché tutta la neve intorno e il prato verde era un qualcosa di bello a vedersi. Il primo tempo fu una roba da morire da ridere. La gente fuori si accorse che c'era qualcosa che non andava, infatti quando si uscì per il riposo ci presero a pallate di neve. Rientrando in campo, dopo un quarto d'ora, Causio da 25 metri tirò una palla così tanto per appoggiarla al portiere, Zinetti andò con superficialità a prenderla, gli si scivolò dai guanti e entrò in porta. A quel punto lì Causio corse da Trapattoni in campo, i giocatori della Juventus incominciavano a parlare fra di loro, sembrava quasi un mercato, ma si intese subito che le cose stavano cambiando. La palla dopo un attimo finì in corner e Beppe D'Ossena si diresse a cacciarlo. Sul secondo palo eravamo io, Bettega e Albinelli, e all'interno dell'area piccola c'erano Cazzotti, Sputi, Parolacci, di tutto, finché a un certo punto Bettega disse: basta, dice, fatevi pareggiare, non ci penso io. E su quel corner di D'Ossena la fortuna volle che Brio la mettesse dentro. Fu un'autorete incredibile, non penso che lui l'abbia più fatta in vita sua, belle cose. Si va da Roma per incassare la scommessa e Cruciani mi dice che non ho vinto, perché oltre a Bologna e Juventus aveva giocato anche Taranto, Palermo. Il Palermo aveva perso a Taranto e loro avevano giocato questo pareggio, allora mi dice che non mi può pagare. Mi dice Cruciani che sarebbe venuto su con i soldi contanti se noi avessimo accettato di fare un pareggio con l'Avellino. Parlo con D'Ossena, Paris, Zinetti, Colomba. Siamo 5 e Savoldi. Dopo una lunga chiacchierata dicono: va bene, accettiamo. Mentre dall'altra parte Cruciani e Trinca avevano messo d'accordo tutti i giocatori con i miei. A un certo punto, quando le cose non debbono andare, non c'è niente da fare, Beppe D'Ossena fece un cross sul secondo palo. In quel momento Savoldi mette un piede fra le gambe di Di Somma e praticamente spinge senza neanche volere la palla nell'angolino. C'era ancora più di mezz'ora a giocare. non siamo stati capaci a farli pareggiare. Potevamo anche giocare forse 6 mesi, ma non ci si riusciva. Negli spogliatoi sentivamo Trinca urlare: dove sono quei figli di puttana? Fatemeli vedere, portatemeli qui. Noi facemmo la doccia svelti svelti e poi uscimmo da un'altra parte. E dopo la partita dell'Averino andai a Roma a incontrare Cruciani, perché lui aveva incominciato a dire che avrebbe denunciato tutte le squadre di Serie A se non avessero pagato 200 milioni. La domenica dopo si andò a giocare a Catanzaro. A un certo punto, finita la partita, arrivò negli spogliatoi di Corso Axoliano e disse: stanno arrestando un po' tutti, a Roma, a Pescara, a Milano, ti puoi immaginare. Ci prese il panico. 11 giocatori, 9 di Serie A, 2 di Serie B e il presidente di una società calcistica, cioè Colombo, presidente del Milan, sono stati arrestati oggi. Manfredoni e Giordano, Cacciatori e Wilson della Lazio, Albertosi e Morini del Milan. Alle 8, quando vedemmo il telegiornale, quei due taxi sulla pista dell'Olimpico e sentire tutto quello che era successo, io non so, penso che non dormì nessuno quella notte. La mattina si partì in aereo per andare a Bologna pensando che ci arrestassero. Invece arrivammo a Bologna, c'era la guardia di finanza che ci aspettava e ci confermò che noi, come gli altri, che non eravamo andati in prigione, dovevamo presentarsi in una caserma di Roma per degli interrogatori. Mi ricordo che una notte eravamo io e Paris in camera in un albergo romano. Adelmo pianse quasi tutta la notte. Mi ricordo che arrivarono una sera a Casteldebole D'Ossena, Beppe Savoldi, Paris, Colomba. Beppe, che era il capitano sia in campo che fuori, iniziò e mi disse: allora noi, dice, ti garantiamo 38 milioni di ingaggio più i premi partita per 4 anni. Se prendi la colpa, tutta te. Noi ti paghiamo 4 anni più i premi e la Juventus ti mette 200 milioni in Svizzera. Io restai un po' in silenzio un attimo. Dico: ragazzi, bisogna che ci pensi. Poi la mattina dopo presi la macchina e andai fino a Brugnato. Incontrai mia moglie e gli parlai un pochino della cosa. Non ero convinto di farla, anche perché i miei ragazzi avevano patito a scuola in quel periodo, tutti li prendevano in giro, non era una cosa che mi sembrava lecita fare. E quando tornai a Bologna le dissi di no e vidi che ci restarono molto male, perché avevano già programmato tutto. Dopo una riunione di circa 10 ore, conclusosi questa mattina alle 5, la commissione disciplinare della Lega Calcio ha emesso la sentenza relativa al processo sulle scommesse per il Milan, retrocessione in Serie B. Avellino e Perugia partiranno da meno... Carlo Petrini viene condannato a 3 anni e 6 mesi insieme a Beppe Savoldi, a Stefano Pellegrini, a Paolo Rossi, a Della Marchia, a Giordano, a Manfredonia e... praticamente è finita la vita. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.